Ciao a tutte, ciao a tutti. Siamo in collegamento con una compagna, una studentessa del liceo Manara, che ci racconterà che cosa sta succedendo all'Assemblea Nazionale Studout, che è in corso oggi e domani, cioè il 30 e il 31 ottobre, al Porto Fluviale, via del Porto Fluviale 12, qui a Roma. Ciao. Sì. Senti, ci farebbe piacere sapere che cosa, qual è stato per esempio oggi più o meno l'ordine del giorno, oppure che cosa avete, come avete programmato le giornate, insomma, raccontaci un po' tu. Sì, allora, oggi è il primo giorno in cui ci incontriamo, abbiamo avuto diversi brillanti momenti di discussione, di dibattito, il primo di analisi da tutte le città d'Italia di cosa si è mosso in questi mesi di autunno in tutta Italia a livello studentesco, cosa si sta muovendo e quindi un'analisi di quello che sono state le piazze del 7 ottobre o del 21 ottobre e come ci siamo mossi, come è stata percepita questa volontà collettiva di un rifiuto che abbiamo chiamato generazionale, un rifiuto ingovernabile da parte della generazione intera e come è stata percepita anche all'esterno, non solo da chi in piazza ci stava. È uscita una valutazione positiva, è uscita una valutazione che fa sentire qual è il messaggio che portiamo, il no che portiamo sicuramente verso il referendum, ma il no che portiamo al sistema che ci circonda, ma che portiamo alle politiche del governo Renzi. Proprio in questo momento stiamo discutendo di quali sono i cambiamenti della scuola, non solo alla legge 107 del governo, non solo a causa della legge 107 del governo, della buona scuola, ma anche a livello più ampio. Cos'è la scuola 2.0, la soggettività a cui ci interfacciamo in questa scuola che non comprende più i ruoli militanti, almeno con le pratiche che abbiamo sempre utilizzato. Certo. Mentre domani sarà se ora è un momento di analisi, domani sarà un momento di prospettive future per i mesi che ci aspettano, di lotte future, di capire cosa faremo nei prossimi mesi. Sicuramente il primo obiettivo è il corteo nazionale a Roma da attraversare il 27 novembre per la campagna C'è chi dice no, e tra questi C'è chi dice no ci sta anche il no degli studenti, il no di cui parlavo prima, un no antisistemico, un no inclusivo, un no forte che tiene la generazione intera. Domani infatti ci sarà anche un momento di discussione aperto a tante altre realtà, partecipare alla lotta per la casa, partecipare all'università, e forse riusciremo a far intervenire tramite Skype i compagni della lotta MAPAV. A che ora è il momento collettivo? Mi pare alle 16, non vorrei dire eresie, mi pare di aver letto alle 16. Per motivi organizzativi forse dovremmo spostarlo in tarda mattinata, Ah, ho come stai capito. sapendo. Quindi in tarda mattinata o nel primo pomeriggio. Certo. E ovviamente questo è un apporto che portiamo noi a quello che si sta muovendo verso il 27 novembre, anche il 21 ottobre ci sono state le mobilitazioni di studenti, la mattina di che sia logistica, il pomeriggio il corteo della casa, e insomma vogliamo è anche il posto in cui facciamo assemblea esplicativo della rete che vogliamo costruire, l'intreccio, vogliamo far convergere le lotte sui territori, arrivare a far capire che questo governo non ci deve stare. Altro obiettivo di questa assemblea è far capire che dopo il 4 dicembre l'obiettivo di cambiare la situazione immobile in cui siamo adesso sarà compito nostro, cambiare quello che ci circonda, prendendo il 4 dicembre non come punto di arrivo ma come tappa, è compito nostro e l'appuntamento di questi 2 giorni è sicuramente molto importante per arrivare a costruire i prossimi mesi di lotta. Perfetto, grazie, sei stata estremamente esaustiva e quindi buon lavoro a questo punto. E Grazie. a tutte e a tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao.